Ah, bellissimi di casa, bentornati qua sul Grande Reset. Dopo un po' di tempo, ragazzi, c'è stato un paio di settimane che la mia voce era tutta così. E vabbè, chi ha avuto la portabilità di ascoltarmi, insomma, se ne è reso conto che non era fattibile andare in radio in nessuna maniera. Sto rubando le basi a Mono perché mi sono reso conto che durante queste settimane in cui ho fatto tantissime cose, ho piastricciato un sacco di robe sul database degli asset della musica, e mi sa che devo passare il fine settimana a rimettere un po' tutto in ordine, perché ovviamente se tu sminchi e poi dopo anche i sistemi che dovresti utilizzare per fare la radio si sminchiano insieme a te. Ragazzi, oggi non è una puntata di quelle che dici oh, ammazza che puntata pregna, perché da gennaio ricomincerò con scusate, con quello che era il cammino del Grande Reset, cercando di riprendere un po' i temi delle cose che avevo preparato e lasciato in sospeso, e cercherò ovviamente di fare in modo che questo, insomma, ritorni il programma che vogliamo. Sto cercando di lavorare anche, avete sentito la nuova sigla, cioè sarà una piccola variazione anche nella cover, quindi nella grafica, e la stessa cosa farò poi piano piano con tutti quanti gli altri programmi, cercando di rimettere in ordine un po' tutto, archiviando il materiale vecchio in modo che non ci sia più confusione, che mi crei ovviamente casino tra quello che dovrebbe essere e quello che in realtà era, e quindi poi dopo si mischia tutto. Poi succede che quando tu apri i programmi di regia per dire oh, allora devi mettermi questo sottofondo musicale, quello dice non c'è. Ma come non c'è? È qui nella lista? No, non c'è, mi spiace, ho avuto un errore nel caricare Cazzi Imperio e via dicendo. Ah vabbè, allora mentre che c'era ovviamente The Necromancer, e praticamente io ho cercato di sistemare un pochino, cioè nel senso di mettere in ordine, ma non è una roba che fai in 11 minuti, insomma è una cosa che devi riorganizzare un po' tutte le cartelle. Siccome che ero diventato bravissimo a fare questa cosa, insomma è giusto che mi riprenda questa buona abitudine. Dunque ragazzi, come vi ho detto, oggi musica tranquilla, insomma musica che fa parte un po' del mio percorso musicale, niente di che, puntata di cui parleremo insomma di runtime in questa fase, quindi delle feste di Natale e di quello che poi ovviamente è anche un po' il futuro, quello che insomma cercheremo di organizzare per il 2026. Tra l'altro, insomma, avete visto che avevamo promesso delle novità e delle novità sono arrivate, ma in realtà non abbiamo ancora finito, perché purtroppo poi non riusciamo a trovare il tempo per fare tutte le cose così come le vorremmo fare. Ovviamente ci proveremo, ragazzi, faremo del nostro meglio, perché manca ancora uno o due podcast, due nuove trasmissioni, una o due nuove trasmissioni da portare a termine, anche se una penso che sarà molto dilatata nel tempo, perché insomma il compare lì c'ha sempre un sacco da fare, è troppo impegnato, lo cercano per fiere, lo chiamano per paesi, come si dice dalle parti mie. Vabbè, iniziamo, dai. Lo so, questa è una scelta un po' strana, io me ne rendo conto, però perché ho detto che poi alla fine un pochino questa puntata si porterà dietro praticamente dei brani musicali che in qualche maniera hanno fatto parte del mio percorso. Allora, la canzone di per sé no, però questi sono due artisti che secondo me hanno un po' rappresentato anche la mia ambivalenza, no? Da un certo punto di vista, no? Sono due artisti che hanno iniziato il Folk Studio a Roma, e considerate Antonello Venditti e Francesco De Gregori, per come li vedete così diversi fra di loro, in realtà il primo disco lo hanno fatto insieme, no? Theodorus Campus, che era il primo disco che hanno fatto insieme, alcune canzoni le cantava De Gregori, alcune canzoni le cantava Venditti e alcune canzoni le hanno cantate insieme, ed era un percorso iniziato fra due persone che erano evidentemente amiche, no? Da un punto di vista artistico e anche da un punto di vista politico, no? Ovviamente stiamo parlando degli anni 70, quando diciamo non era così difficile insomma trovare artisti, cantautori di ispirazione comunista, diciamo così. Poi però i caratteri e anche un po', come posso dire, il fascino per determinate cose hanno fatto in modo che questi due artisti prendessero due strade diverse. Uno, Antonello Venditti, che ha fatto un percorso di commercializzazione molto importante fino a diventare un artista abbastanza detestato da un certo tipo d'ambiente, e De Gregori, che invece ha continuato per la sua visione rigorosa, no, del mondo in qualche maniera. E questo poi gli ha portato anche a lui diversi problemi, perché ha praticamente creato un'affezione con una parte estremamente intransigente in un periodo storico e politico molto particolare, ragazzi. Infatti De Gregori, che non era un grandissimo amante delle live o dei concerti, come si diceva allora, ha avuto un problema proprio quando lui pubblicò Rimmel e fece il concerto di Rimmel. Alla fine di un concerto fu praticamente sequestrato da un gruppo di, oggi li chiameremmo di fan, di stalker, ma in realtà erano insomma dei fanatici, poi alla fine in qualche maniera, e fu processato, diciamo, una sorta di processo del popolo, no? Dove praticamente veniva accusato di aver abbandonato la linea, di aver abbandonato la filosofia, di aver abbandonato un po' il pensiero, il modo di portare avanti un certo tipo di messaggio, un certo tipo di canzoni. E sì che Rimmel è effettivamente un album, da un certo punto di vista, conoscendo il De Gregori della prima ora, un album più commerciale tra virgolette, ma lui ha sempre comunque mantenuto una certa coerenza nel messaggio e nell'etica. Poi che a un certo punto, invece di parlare solo di politica, magari ha parlato anche d'amore, è chiaro che questa cosa deve aver destabilizzato gli oltranzisti, no, in qualche maniera. E questo evento l'ha un po' turbato, diciamo così, l'ha un po' turbato, e l'ha portato ad essere poi quel De Gregori un po' particolare, che faceva sì i concerti, ma non amava i concerti, non amava la gente che cantava coi cori mentre che lui cantava, insomma tutte quelle cose che poi alla fine a persone tipo mia moglie l'hanno portato un po' sul cazzo. Intanto salutiamo Morgan, salutiamo Magoslo e Deborah, che vedo che alle 7:12 ci ha lasciato un bel messaggio. Questo mi sa di torcicollo, questa cosa, non so perché, però magari insomma alla fine ci si sveglia anche presto la mattina. Comunque dicevo, insomma, questa cosa l'ho un po' turbato, perché insomma ragazzi, voi immaginate una persona che già un po' schiva de suo, no? Più poi alla fine del concerto arrivano sti 4-5 e ti metti pure un po' paura, no? 4-5, poi va a sapere, adesso non mi ricordo perché lo lessi in una sua biografia di tantissimo tempo fa. Però ecco, diciamo che il fatto che De Gregori comunque in qualche maniera abbia creato un solco tra lui e Antonello Venditti, anche giustamente, no? Da un certo punto di vista, e fece anche una canzone, no? Dedicata ad Antonello Venditti, no? Sono un pianista di piano bar, cioè che è un po' veramente un insulto da due persone che erano profondamente amiche, no? Cioè in qualche maniera. E voi immaginate una situazione del genere dove, insomma, ti ritrovi a sentirti dire dalla persona con la quale hai iniziato con chitarra e pianoforte a fare le due ballad politiche particolari, dove hai comunque raccontato una storia, e dove poi ovviamente Antonello Venditti per i primi due dischi ha comunque tenuto pure lui un po' botta, anche se si vedeva un po', diciamo, l'andazzo più sulla ricerca della melodia. Poi sapete questo rapporto, non perché io sono della Lazio, no, però questo rapporto con l'essere il cantante dell'inno della Roma, comunque in qualche maniera ha un po', come posso dire, tolto quell'aurea intellettualoide, no? Perché ovviamente se tu andavi ai concerti dei Gregori c'era, sì, la gente applaudiva, cantava e via dicendo, ma se andavi ai concerti di Antonello Venditti, e io ci sono andato ai concerti di Antonello Venditti, c'era un po' sto sbiascicume, Roma, che se lui non cantava queste canzoni da Roma la gente si incazzava, no? Quindi poi alla fine c'è proprio un distacco, ma non perché, cioè, alla fine sono delle canzoni meravigliose, cioè la Roma come società di calcio fa bene ad essere iper orgogliosa di avere due inni cantati da Antonello Venditti, entrambi da una qualità insomma incredibile, no? voi immaginate essere tifosi della Roma e stare in uno stadio 70.000 persone che cantano comunque gli inni della Roma cantati da Antonello Venditti, insomma, ragazzi, cioè l'effetto anche emotional è abbastanza importante, no? Cioè non è una roba da quattro soldi, insomma, no? E comunque però questa cosa, ragazzi, quante volte è capitato vedere i concerti di Antonello Venditti e, mentre che lui, no, tra una canzone e l'altra, bomba non bomba, o compagno di scuola, mentre che ne so, si piazzava, si sentiva Roma, Roma, Roma, insomma, sta cosa oggettivamente secondo me un po' ha creato un solco, perché a lui lo ha portato verso quanto mi piace essere adulato e quanto mi piace fare le canzoni commerciali che piacciono a tanti, invece che quella nicchia dei comunisti che, ai quali, per i quali cantavo prima. Dall'altra ovviamente ha creato appunto una separazione, una distinzione talmente tale che si sono dedicati delle canzoni entrambi, no? Cioè, nel senso, appunto, De Gregori ha cantato Sono un pianista di Piano Bar, che è una canzoncella che secondo me lo rispecchia anche un pochino, cioè nel senso, alla fine, da uomo che portava un certo tipo di messaggio dal punto di vista politico, anche della lotta politica, a uomo che canta per la pancia della gente, insomma, no? E questo è un po', secondo me. E Venditti dedicò una canzone che io ricordo poco, perché la odiavo, ovviamente, essendo un De Gregoriano, poi alla fine, cioè nel senso, ha dedicato una canzone a De Gregori che si chiamava proprio Francesco, no? Cioè tipo, vabbè, Francesco, cosa è successo? Cosa ci è successo? Cosa ci ha separato? Cosa ci ha separato? Sei un coglione, alla fine questo in qualche modo ti separa. Il banco di mutuo soccorso, perché sennò poi dopo uno dice vabbè, ma metti sempre la PFM. Ma in realtà, ragazzi, gli anni 70 per il rock progressive italiano, la musica elettronica, è stato un periodo incredibile. È, diciamo, meno conosciuta come tipo di musica rispetto a tantissima altra roba più commerciale, perché noi poi alla fine siamo un po' il paese della musica leggera, no? In qualche maniera. Però in realtà la cosa bella è che la premiata Forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso, gli Area e tutta comunque una serie di grandi band fatte da grandissimi musicisti hanno portato poi alla fine il progressive rock italiano in giro per tutto il mondo. Cioè hanno rotto quella barriera quasi di isolamento, no? Che c'era tra noi e quella musica che producevamo semplicemente per noi stessi. Se voi considerate che queste band alla fine hanno suonato a New York, hanno suonato a Tokyo, hanno suonato in Sud America, hanno suonato insomma nel resto del mondo, quindi scusatemi, ma la morte ancora non è passata del tutto così come avrei pensato. Ma io a volte penso, dice, ma se un giorno per qualche motivo mi se ne dovesse veramente incriccare la gola e non potessi più fa la radio, sarebbe triste, veramente molto molto triste. Cosa rimarrebbe della mia vita? Niente. Comunque, ragazzi, volevo parlarvi di Knocks in the Night. Insomma, era questa cosa che avevo provato ad elaborare già, insomma, durante l'estate. Avevo mandato delle demo agli amici e conoscenti. Poi ho riscritto tutto quanto da zero ed è partito, insomma, è partito questo esperimento che molti di voi mi hanno chiesto anche in privato: ah, ma come funziona? Ah, ma come fa? Ah, ma chi è? Ma che fai? Lo fai tu? Lo fa lui? Allora, ragazzi, è fiction. Partiamo da sto presupposto: è fiction e non è neanche insomma tutta sta gran fiction, diciamo così, no? Però è stato interessante come cosa, e soprattutto perché, per quanto non sia poi iper originale quello che sta uscendo fuori, è interessante il modo in cui esce fuori, e quindi diciamo la scatola, la confezione di quello che esce fuori. Ed escono fuori delle puntate con delle riflessioni fatte da una voce calda e profonda, un talk radio proprio notturna vecchio stile, però diciamo che è il percorso musicale che è abbastanza interessante, che diciamo gli dà quella atmosfera emozionale che in qualche maniera lo rende quasi interessante come tipo di esperimento. Di che si tratta? Si tratta di un progetto che avevo già pensato quest'estate, che avevo iniziato, diciamo, abbozzato, poi dopo l'ho ricominciato, l'ho resettato, diciamo, da un certo punto di vista. Ed è fatto interamente con l'intelligenza artificiale, cioè nel senso che al di là dell'indirizzo di partenza e alcune linee, diciamo, guida che gli do quando magari voglio fare delle situazioni particolari, diciamo, io non ho fatto niente se non dare un system prompt a Gemini 3.0, cioè un system prompt dove gli dico che lui è un autore di trasmissioni radiofoniche, scrive il copione, deve costruire il personaggio e deve scrivermi ovviamente le intere puntate, compreso il percorso musicale, tramite ovviamente determinati parametri, determinate caratteristiche, il modo in cui deve annunciare e disannunciare i brani, quanto devono durare gli episodi, che tipo di musica e via dicendo, specificando se è stato un talk show notturno. E lui ha costruito, diciamo, un piano editoriale e poi ha iniziato a scrivere determinate puntate. Poi ogni tanto intervenivo dicendo: allora, in questa puntata chiedi al pubblico se vuole ovviamente partecipare con domande tipo di qua, domande tipo di là, e poi magari se raccoglievo delle domande, che poi ovviamente era un po', diciamo, tutto preordinato, perché poi le puntate dove ovviamente ci sono questa cosa delle domande non è una cosa che è successa adesso, cioè che è già andata in onda, è successa adesso in fase di progettazione, di scrittura. Quindi io sono andato dagli amici, i soliti amici, gli ho detto: ragazzi, volete fare delle domande, volete dare delle risposte a seconda di quello che ovviamente era la situazione. E magari nell'episodio successivo, rompendo un po' lo schema del piano editoriale che lui si era dato, io gli davo tutte le risposte e lui ci costruiva sopra una puntata. E poi sono state delle puntate extra, come quella che ci sarà per Natale e per Capodanno, e poi c'è il resto, insomma, del programma. Poi a un certo punto, ad esempio, io ho detto: guarda, questa puntata, seguendo sempre il piano editoriale, seguendo sempre il modo in cui tu vuoi sviluppare la puntata, ti do questo suggerimento. Ecco, diciamo, questi sono i miei interventi, no? Però non ho mai indirizzato, no, da quel punto di vista, niente, no? Perché volevo vedere che cosa ne usciva fuori poi alla fine. Sapevo che, più o meno sapevo già, perché avevo già provato a fare questo esperimento, solo che adesso magari è un po' più maturo da un certo punto di vista, anche perché magari i modelli linguistici sono un po' più sofisticati anche nel linguaggio, no? Cioè, quindi, diciamo, mi aspettavo uno step in più, che però poi secondo me non c'è stato da un certo punto di vista. È tutto abbastanza standardizzato, no? Diciamo così, non c'è quel guizzo, no? che magari avrebbe potuto esserci, ma come è giusto che sia, perché se ci aspettiamo un guizzo e poi quel guizzo arriva, dovremmo poi farci delle domande da un certo punto di vista. Però appunto il guizzo non c'è stato, non è arrivato e non ce n'è fregato niente, diciamo, da un certo punto di vista va bene così. Però mi piaceva proprio l'idea, no? Di costruire queste 15 puntate più le puntate extra, fatte in questo modo, scritte bene, secondo me, comunque con una logica. C'è anche una connessione del percorso musicale che poi alla fine comunque costruisce e fa queste riflessioni non da speaker umano, cioè non si pone come speaker umano, ma si pone come l'anima nella macchina, no? Cioè, nel senso, come il fantasma nella macchina, no? Da un certo punto di vista. E quindi dice: sono un'intelligenza artificiale e faccio delle riflessioni comparate ovviamente al modo in cui voi vedete le cose e al modo in cui io osservo che voi vedete le cose, no? Che è interessante, perché poi alla fine alcune cose, alcuni spunti sono, però è fiction, cioè nel senso non è che l'intelligenza artificiale pensa veramente quelle cose, perché dovremmo poi sostenere che l'intelligenza artificiale pensa, e non è. Non è così, perché, come abbiamo detto mille e mille volte, si tratta sempre di modelli che costruiscono dei pensieri, delle frasi e dei contesti, ovviamente sulla base statistica. È vero che poi comunque lo fanno in modo contestuale, cioè non è che se tu gli dici: racconta, immaginati una casa in collina di una favola, lui comincia a parlare di elettroni, insomma, e lo fa magari in modo ben strutturato, cioè comunque è coerente col discorso che sta facendo. E tutto questo poi viene passato per un TTS, quindi un text to speech, quello di Google, che secondo me è il modello più incredibile dal punto di vista proprio dell'interpretazione. Anche lì l'unico system prompt che gli ho dato è uno speaker radiofonico di una trasmissione notturna. Basta, cioè non è che... E ovviamente ho scelto la voce che ritenevo valida per questo tipo di progetto. Devo dire la verità che alla fine comunque un paio di puntate in particolare mi sono veramente molto molto piaciute. È uscita la prima puntata, la seconda puntata verrà mandata in streaming sabato notte, domenica notte alle 23 e uscirà alle 23.30 come podcast, poi ve la ritrovate insomma il giorno dopo, ve la potete ascoltare quando e come vi pare. E poi ci sarà la puntata successiva che è lo speciale di Natale, no? Quindi c'è questo raffronto, no, del... voi umani il Natale, io per me che cos'è il Natale, cose del genere, insomma. Diciamo, anche lì niente di particolarmente originale, però interessante perché comunque il percorso musicale che ha scelto mi è piaciuto molto, diciamo, da un certo punto di vista. E mi piace confezionarla proprio come cosa, mettere lì proprio a montare, agganciare la musica su quando lui attacca, stacca determinate cose. Insomma, secondo me alla fine viene fuori una cosa caruccia. Sono 15 puntate più puntate extra e poi non credo che replicherò questa cosa, o quantomeno non in questa forma qui, insomma, magari proverò a fare altre cose un po' più diverse, magari andando proprio sullo storytelling, diciamo così. E a proposito di storytelling, poi ovviamente devo dire la verità, ci sono delle novità che devo dirvi su Tra le righe e la biblioteca parlante, e lo faccio dopo il brano. E vabbè ragazzi, un Franco Battiato molto più inedito, e una volta sarebbe bello fare una bella monografia su Franco Battiato, perché ragazzi, noi oggi l'abbiamo conosciuto nella parte finale della sua carriera, dove sempre con grande maestria e qualità e grandezza comunque ha fatto canzoni più standard, no? Più legate comunque poi magari alla tradizione della musica leggera italiana, anche se ovviamente con il suo livello, la sua qualità, insomma, da un punto di vista chiaramente artistico, creativo, musicale e anche di composizione. Ma Franco Battiato dovete considerare che ha iniziato come musica elettronica, i primi due dischi sono una cosa incredibile, Franco Battiato, sia tematicamente che insomma musicalmente. E io avevo dei dischi a casa quando ero ragazzino di Franco Battiato, perché li comprava mio padre. In particolare mi ricordo questo disco 1972, che era pura sperimentazione, e mi ricordo che io quando stavo da solo a casa comunque, oppure mi chiudevo nella sala da pranzo dove c'era l'impianto hi-fi della Pioneer, ricordo, con le casse appese sopra, roba di qualità rispetto a quello che è ovviamente il modo in cui sentiamo la musica oggi, no? Mettevo questo 33 giri e me lo ascoltavo, che era pieno di suoni, di voci, di dissolvenze, dei riverberi, di effetti, dei pezzi musicali elettronici. Era tutta una roba super sperimentale. Se voi pensate che nel 1972 questo con sta roba ci aveva fatto un disco, cioè era stato prodotto da qualcuno in un paese dove se non cantavi amore, cuore, fiore, insomma era tosta, no? Cioè, nel senso, immaginate anche questa cosa qua. Quindi anche un po' la tenacia nel riuscire a produrre queste cose che erano veramente incredibili. E da lì secondo me è un po' nato il mio fascino per il montaggio in generale, nello specifico del montaggio audio, che però era più complicato, no, tecnicamente negli anni 70-80, anche se poi io ho fatto le mie belle cose, una volta magari ve le racconto, perché queste sono piccole chicche da grande reset, diciamoci la verità, ma poi magari una volta veramente le raccontiamo queste cose. E, però ecco, in generale comunque per... per il racconto, no, sonoro in qualche maniera, perché cioè, tu alla fine poteva, rumori di statica della radio con suoni che arrivavano, il, che ne so, i beep di un satellite, cioè, tutte cose che tu dici vabbè, ma che butti tutto nel cardino, e invece in realtà poi quando lo ascoltavi entravi nel mood giusto, ti mettevi seduto sulla poltrona anche da ragazzino, perché io comunque ero un ragazzino, cioè non ero grande, insomma, e mi ascoltavo sta roba e cioè proprio trip totale, cioè, per me facevo proprio i viaggi, cioè io vedevo proprio la cinematografia, cioè proprio andavo proprio, mi costruivo proprio i film dentro la capoccia mia, quindi era qualcosa di veramente incredibile dal mio punto di vista. Poi veramente, oh, ragazzi, ognuno ha un po' le sue, insomma, da questo punto di vista. E che volevo dire, volevo dirvi che praticamente niente, praticamente vabbè, questo era un Franco Battiato sul quale magari una volta tramite Michela ce la studiamo un pochino, cioè nel senso che è roba che va un po' più elaborata da un certo punto di vista, ecco, magari ci facciamo una monografia proprio su Franco Battiato partendo proprio dalle origini e seguendo anche un po' la trasformazione, perché poi dopo è arrivato il Centro di Gravità Permanente e tutte le canzoni che l'hanno un po' reso famoso, no, da un certo punto di vista, però lui non è nato lì, no, cioè nel senso c'è tanta roba prima, roba anche che ha fatto magari difficoltà pure a pubblicare in Italia, che magari ha dovuto pubblicare all'estero, in Inghilterra, dove già negli anni 70 c'era, sì, c'era un certo atteggiamento anche lì, perché noi gli inglesi poi noi li facciamo passare come sti grandi rivoluzionari, però dal punto di vista musicale, diciamo, l'industria era gestita comunque da persone che avevano il coraggio, no, magari di proporre qualcosa di diverso. Comunque volevo dirvi qualcosa su Tra le righe e la biblioteca parlante, perché è vero che tra la prima e la seconda puntata c'è stato un bello stacco, abbiamo avuto tante cose da fare, non sono stato bene e tutto quanto, però poi insomma è uscito il secondo episodio e insomma stanno uscendo e altri episodi, è uscito un mio racconto, ci sarà la raccolta di poesie di Morgan Settembre, ci saranno due racconti di una donna che insomma ha voluto concederci questi due racconti molto particolari, molto belli, poi ovviamente Maria Fiore, poi dopo ovviamente li ascolterete, ci sarà un racconto, anzi quattro racconti di Christian Spaccamaniccia, il nostro grande Christian Spaccamaniccia, un altro racconto di Kayla Dahmer e poi inizierà, anzi no, il racconto, cioè non ci sarà il racconto di Kayla Dahmer perché è un romanzo praticamente, quindi ci saranno due romanzi appunto, uno ci è arrivato dalla Germania ed è stato tradotto in italiano con Deep Hell e devo dire la traduzione italiana secondo me è di grande qualità, per quanto sia fatta ovviamente con un software di deep learning, e funziona molto bene, è bello, è scritto molto bene, è lunghissimo, quindi saranno 4-5 puntate probabilmente, con 10-15 capitoli a puntata, insomma sarà veramente una roba molto molto lunga, non è il mio genere, però è comunque interessante, un giallo, un po' giallo, un po' Harmony, diciamo così, e poi torneremo ovviamente nella fantascienza con Kayla Dahmer, con il suo base 9001, anche lì vediamo insomma in quante puntate poi distribuiremo questo. Mi fa piacere il fatto che si sta creando poi questa cosa, che si stanno accumulando le opere, perché comunque adesso dovremo un po' accelerare, no? Noi pensavamo di produrre praticamente una puntata ogni 15 giorni, ma adesso con tutto questo materiale un pochino dovremo accelerare, poi magari ritorneremo a una puntata ogni 15 giorni se non arriverà altro. Vi invito ragazzi ancora una volta a partecipare, cioè a mandare i vostri racconti, le vostre storie, i vostri romanzi brevi, anche se avete scritto un saggio sugli antichi romani, qualsiasi cosa voi vogliate, a noi ci fa assolutamente piacere comunque trasformarlo in audiolibro e proporlo in podcast per continuare a divulgare e anche stimolare poi alla fine la discussione, la partecipazione, un po' di creatività che non fa mai male, e le poesie ovviamente. Morgan Settembre ci ha mandato queste poesie veramente, veramente molto belle. È una puntata breve rispetto alle altre, perché per quanto siano 10 poesie, la maggior parte sono brevi, però insomma, per quanto poi ho cercato di dare un po' di aria anche dal punto di vista musicale, alla fine comunque la puntata è una puntata breve. E invece per quanto riguarda armonia, cronostorie in musica di Cristian Spaccavaniccia, domani ragazzi esce un puntatone che a me ha emozionato molto, e devo dire che secondo me quelli della mia generazione in particolare l'apprezzeranno tanto, e soprattutto perché, per quanto romanzata, come ovviamente tutta la fiction che c'è dietro le monografie che fa Cristian dal punto di vista musicale, in realtà poi parte da una storia vera, e quindi è interessante anche questo. Non perdetevela, domani mattina ve la trovate in podcast alle 7 e mezza, la trovate in streaming. Poi domani mattina ci siamo io e Michela, ma dopo ne parliamo. Vabbè ragazzi, ci manca il grande Rino, perché purtroppo c'è certa gente che è rimasta e c'è certa gente che se n'è andata, e quelli che se ne sono nati, come diceva qualcuno, sono sempre migliori quelli che se ne vanno. Ma io sono qui per i saluti ragazzi, e vi dico gli appuntamenti dei prossimi giorni, che saranno veramente veramente progni. Si comincia questa sera alle 22:30 con Runtime by Night, e invece armonia di Cristian Spaccavaniccia, come vi ho detto prima, con uno speciale, lo chiamiamo natalizio ma in realtà non è natalizio, disponibile in podcast domani mattina dalle ore 6, ma ovviamente in streaming sulla radio alle ore 7:30, poi andrà ovviamente in rotazione, ci sarà ovviamente opportunità di risentirlo, mentre che faremo una puntata di Disordinati Informati con Michela domani mattina alle ore 8:30 in live ovviamente. Domenica ci sarà la grande domenica di Runtime a partire dalle ore 8 con tutte le repliche, ma soprattutto ci sarà l'intervista a Kayla Damer da me ever. Adesso mi sta sentendo e quindi mi sta bestemmiando, Kayla Damer. Parleremo di libri, di fantascienza, insomma di intelligenza artificiale, parleremo insomma di tante robe domani live alle ore 17:30 al posto di Prova Microfono, che tanto abbiamo capito che durante le feste di Natale si è dato praticamente. Domenica alle 17:30, alle ore, cioè, vabbè, avete capito, no? Vabbè, ve lo ripeto, intervista a Kayla Damer domenica ore 17:30 live. Mentre sempre domenica chiudiamo la giornata alle ore 23 in podcast, anzi alle ore 23 in streaming e alle ore 23:30 in podcast, il secondo episodio di Knox in the Night, questo progetto appunto di cui vi ho parlato prima. Adesso io penso che se ne potremo andare tutti quanti riccamente in del posto, e io vi lascio con un grande compagno, un compagno che tra tutti quelli che ho citato prima è rimasto coerente fino alla fine, e insomma forse gli avrebbe fatto compagnia un altro, che però purtroppo insomma il destino ha pensato di portarcelo via anche lui troppo presto. Quindi vi beccate la chiusura della trasmissione con Francesco Guccini. Ciao a tutti!